siamo di fronte a brani biblici trasgressivi. Stupirsi per la legge di Mosè, sacralizzata. Il lebbroso uguale un percorso di Dio. Stupirsi perché questo immondo osa ribellarsi. Stupendo. Stupirsi per il miracolo. Stupirsi per il modo di agire di Cristo. Stupirsi. Questo ci chiede di entrare con intelligenza e con pudore in un evento come questo. Allora, due sottolineature che diventano il focus, l'oggetto della nostra riflessione. Guardar dentro il testo e quale messaggio cogliere per noi oggi. Innanzitutto entrare nel testo del Vangelo. Di quel lebbroso non conosciamo né il volto né il nome, perché è un uomo. Ogni uomo sbalzato a terra dalla carovana degli esclusi. Il rifiutato è stanco di fuggire, è stanco di gridare. Si avvicina, va contro la legge e attorno a lui si crea il vuoto. Immondo. Gesù invece rimane e riafferma così che nulla vale quanto la vita di un uomo. C'è questo passaggio che mi affascina. Se vuoi puoi guarirmi. Come dire, non merito nulla, ho solo fame di compassione, di attenzione delle persone e con discrezione, se vuoi. Un capolavoro di trasparenza e di umiltà. Il suo futuro è appeso a quel sé, a un sé misterioso. Se vuoi, una domanda piantata nel cuore di Dio. E sembra che Gesù vacilli di fronte alla domanda sommersa di un uomo alla deriva. Il dolore obbliga Cristo a rivelarsi, se vuoi. Se vuoi. Il lebbroso si appella al desiderio di Dio. Tu vuoi quello che diciamo, che dicono gli scribi, o vuoi guarirmi dentro in quel sé? Gesù è come costretto a rivelare Dio, a dire una parola immensa che rivela qual è il cuore e il desiderio di Dio. Lo voglio, guarisci. E mosso a compassione, stese la mano, lo toccò. Da troppo tempo nessuno toccava più il lebbroso e la sua carne moriva per troppa solitudine. Ogni vita muore se non è toccata. muore di silenzi, di emarginazione, di indifferenza, di disattenzione, di violenze. Il cuore può morire per assenza di incontri. È così che l'uomo è restituito a se stesso, alla famiglia, e torna alle carezze. Gesù tocca e chiede a ciascuno di partecipare al desiderio di Dio più che ai suoi miracoli. O meglio, chiede di partecipare ai suoi miracoli con la compassione, con lo stupore di sentirsi un uomo a pieno titolo. Però sono sollecitato, se non vi stufo, a una seconda considerazione, un messaggio per noi. Potremmo riassumerlo in questa affermazione: dalla strada vengono domande scomode che possono disturbare. È un modo per riflettere. Nessuno deve sentirsi giudice o giudicato. Nessuno ha parole vere per dire io sono. Chi è senza peccato? Dunque la strada nel Nuovo Testamento, pensate, è richiamato 108 volte. Quindi è un luogo teologico, la strada. Perché? La strada è luogo di incontro con le persone, non luogo occasionale o periferico della vita delle persone, ma luogo permanente, essenziale, entro il quale si svolge la vita quotidiana. Quindi la strada, che può essere il mare e che può essere la casa, che può essere la piazza, e così via. Si hanno rapporti e non rapporti con l'ambiente e con gli altri, per strada. Sulla strada si costruiscono le risposte ai bisogni. Bisogni che vengono espressi anche se non tutte le risposte si concretizzano sulla strada. La strada è luogo di cultura. Mi prende questa domanda. È possibile dare un significato e un valore alle fatiche di chi sulla strada sopravvive? La strada è luogo di impegno politico. Riavvicinare senza strabismi le istituzioni alla strada. Le contraddizioni sono innumerevoli. È necessario un impegno di partecipazione. Ecco perché è un impegno politico, il luogo della strada. La strada è luogo di impegno della fede, della speranza e anche della carità. E il Vangelo lo descrive, questo Gesù che cammina, si ferma, parla, tocca, ha compassione, guarda negli occhi, prega, è perseguitato lungo la strada. Chi fa riferimento a lui? I cosiddetti credenti possono esimersi? Chi chiudo. Questo non significa che siamo tutti chiamati a intervenire sulla strada. Ognuno ha il suo ruolo, il suo carisma, le sue scelte. L'importante è lasciarsi interpellare dalla strada, raccogliere i segnali e i messaggi che ci invia. E aggiungo, penso che se non si pronuncia il nome di Dio all'interno della condizione umana, è difficile pensare che Dio sia un liberatore. Gloria a Dio nell'alto di cielo. Faccia in terra gli uomini di buona volontà.